Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Novembre 1862. La principessa Maria Stella salì in carrozza, sedette sul raso azzurro dei cuscini, raccolse il più possibile attorno a sé le fruscianti pieghe della veste. Intanto Concetta e Carolina salivano anch'esse, sedevano di fronte e dai loro identici vestiti rosa si sprigionava un tenue profumo di violetta. Dopo, il peso spropositato di un piede che si poggiò sul montatoio fece vacillare la calèche sulle alte molle. Don Fabrizio saliva anche lui. I due scalini del montatoio furono richiusi. Il servitore ricevette gli ordini. «A Palazzo Ponteleone!» Risalì a cassetta. Il palafreniere, che teneva la briglia dei cavalli, si scostò. Il cocchiere fece impercettibilmente schioccare la lingua. La calèche scivolò via. Si andava al ballo. Palermo in quel momento attraversava uno dei suoi intermittenti periodi di mondanità. I balli infuriavano. Dopo la venuta dei piemontesi, dopo il fattaccio di Aspromonte, fugati gli spettri di espropria e di violenze, le 200 persone che componevano il mondo non si stancavano di incontrarsi, sempre gli stessi, per congratularsi di esistere ancora. Tanto frequenti erano le diverse e pur sempre identiche feste che i principi di Salina erano venuti a stare per 3 settimane nel loro palazzo in città, per non dover fare quasi ogni sera il lungo tragitto da San Lorenzo. Il ballo dei Ponteleone sarebbe stato il più importante di quella breve stagione. Importante per tutti, per lo splendore del casato e del palazzo, per il numero degli invitati. Più importante ancora per i Salina, che vi avrebbero presentato alla società Angelica, la bella fidanzata del nipote. Erano soltanto 10:30, un po' presto per presentarsi a un ballo quando si è il principe di Salina, che è giusto giunga sempre quando la festa abbia sprigionato tutto il proprio calore. Questa volta però non si poteva fare altrimenti se si voleva essere lì quando sarebbero entrati i Sedara, che non lo sanno ancora, poveretti. Era gente da prendere alla lettera l'indicazione di orario scritta sul cartoncino lucido dell'invito. Era costata un po' di fatica il far rimettere a loro uno di quei biglietti, nessuno li conosceva, e la principessa Maria Stella, 10 giorni prima, aveva dovuto sobbarcarsi a fare una visita a Margherita Ponteleone. Tutto era andato liscio, si capisce, ma non di meno era stata questa una delle spinucce che il fidanzamento di Tancredi aveva inserito nelle delicate zampe del Gattopardo. Le ragazze, questi esseri incomprensibili per i quali un ballo è una festa e non un tedioso dover mondano, parlottavano liete a mezza voce. La principessa Maria Stella tastava la borsa per assicurarsi della presenza del flaconcino di sal volatile. Don Fabrizio pregustava l'effetto che la bellezza di Angelica avrebbe fatto su tutta quella gente che non la conosceva e quello che la fortuna di Tancredi avrebbe fatto su quelle stesse persone che lo conoscevano troppo. Un'ombra però oscurava la sua soddisfazione. Come sarebbe stato il frac di Don Calogero? Certo non come quello che aveva avuto addosso a Donna Fugata. Egli era stato affidato a Tancredi, che lo aveva trascinato dal miglior sarto ed aveva perfino assistito alle prove. Ufficialmente era sembrato contento dei risultati l'altro giorno, ma in confidenza aveva detto: «Il frac è come può essere, il padre di Angelica manca di chic». Era innegabile. Ma Tancredi si era reso garante di una perfetta rasatura e della decenza degli scarpini. Era già qualche cosa. Si giunse, si discese nell'androne. La vettura andò a scomparire nell'immensità del cortile dal quale giungevano scalpiccii e baluginii degli equipaggi venuti prima. Lo scalone era di materiale modesto, ma di proporzioni nobilissime. Sui lati d'ogni scalino, primitivi fiori spandevano il loro rozzo profumo. Nel pianerottolo che divideva le due fughe, le livree amaranto di due servi immobili sotto la cipria ponevano una nota di colore vivace nel grigio perlaceo dell'ambiente. Da due finestrotti alti e con grate dorate giungevano risa e mormorii infantili. I nipotini del Ponteleone, esclusi dalla festa, si rifacevano beffeggiando gli ospiti. Le signore appianavano le pieghe delle sete. Don Fabrizio, col gibù sotto braccio, le sorpassava di tutta la testa, benché fosse uno scalino indietro. Alla porta del primo salone si incontrarono i padroni di casa. Lui, Don Diego, canuto e panciuto che gli occhi arcigni soltanto salvavano dall'apparenza plebea. Lei, Donna Margherita, che di fra il corruscare del diadema e della triplice collana di smeraldi mostrava il volto suo adunco di vecchio canonico. «Siete venuti presto, tanto meglio, ma state tranquilli, i vostri invitati non sono ancora comparsi. Una nuova pagliuzza infastidì le unghiette sensibili del Gattopardo. Anche Tancredi è già qui. Infatti, nell'angolo opposto del salone, il nipote, nero e sottile come una biscia, teneva circola tre o quattro giovanotti e li faceva sbellicare dalle risa per certe sue storielle certamente arrischiate, ma teneva gli occhi inquieti, come sempre, fissi alla porta d'ingresso. Le danze erano di già cominciate e attraverso tre, quattro, cinque, sei saloni giungevano dalla sala da ballo le note dell'orchestrina. Ed aspettiamo anche il colonnello Pallavicino, quello che si è condotto tanto bene ad Aspromonte. Questa frase del principe di Ponteleone sembrava semplice, ma non lo era. In superficie era una constatazione priva di senso politico, tendente solo ad elogiare il tatto, la delicatezza, la commozione, la tenerezza quasi con la quale una pallottola era stata cacciata nel piede del generale. Ed anche le scappellate, inginocchiamenti e baciamani che la avevano accompagnata, rivolti al ferito eroe giacente sotto un castagno del Monte Calabrese e che sorrideva anche lui di commozione, e non già per ironia, come gli sarebbe stato lecito, perché Garibaldi, ahimè, era sprovvisto di umorismo. In uno strato intermedio della psiche principesca, la frase aveva un significato tecnico e intendeva elogiare il colonnello per aver ben preso le proprie disposizioni, schierato opportunamente i suoi battaglioni ed aver potuto compiere contro lo stesso avversario ciò che a Calatafimi era tanto incomprensibilmente fallito a Landi. In fondo al cuore del principe, poi, il colonnello si era condotto bene perché era riuscito a fermare, sconfiggere, ferire e catturare Garibaldi, e ciò facendo aveva salvato il compromesso faticosamente raggiunto fra vecchio e nuovo stato di cose. Evocato? Creato quasi dalle parole lusinghiere e dalle ancor più lusinghiere cogitazioni, il colonnello comparve alla scala. Dopo aver sostenuto la doccia di lodi riversata su di lui dai Ponteleone, dopo aver stretto le due dita tesegli da Don Fabrizio, Pallavicino fu sommerso nello spumeggiare profumato di un gruppo di signore. I suoi tratti coscientemente virili emergevano al di sopra delle spalle candide e giungevano sue frasi staccate. «Piangevo, contessa, piangevo come un bimbo», oppure «lui era bello e sereno come un arcangelo». La sua sentimentalità maschia rapiva quelle dame che le schioppettate dei suoi bersaglieri avevano di già rassicurato. Thank you. Angelica e Don Calogero tardavano. E di già Isalina pensava a inoltrarsi negli altri saloni quando Tancredi piantò in asso il proprio gruppo e si diresse come un razzo verso l'ingresso. Gli attesi erano giunti. Al di sopra dell'ordinato turbinio della crinolina rosea, le bianche spalle di Angelica ricadevano verso le braccia forti e dolci. La testa si ergeva piccola e sdegnosa sul collo liscio di gioventù e adorno di perle volutamente modeste. Quando dall'apertura del lungo guanto glacé essa fece uscire la mano, non piccola ma di taglio perfetto, si vide brillare lo zaffiro napoletano. Don Calogero era nella di lei scia, sorcetto custode di una fiammeggiante rosa. Solo suo errore fu quello di portare all'occhiello la croce della corona d'Italia conferitagli di recente. Essa, peraltro, scomparve presto in una delle tasche clandestine del frac di Tancredi. Il fidanzato aveva di già insegnato ad Angelica l'impassibilità, questo fondamento della distinzione. «Tu puoi essere espansiva e chiassosa soltanto con me, cara. Per tutti gli altri devi essere la futura principessa di Falconeri, superiore a molti, pari a chiunque». E quindi il saluto di lei alla padrona di casa fu una non spontanea ma riuscitissima mescolanza di modestia virginale, alterigia neo-aristocratica e grazia giovanile. I palermitani sono, dopo tutto, degli italiani, sensibili quindi quanti altri mai al fascino della bellezza e al prestigio del denaro. Inoltre, Tancredi, essendo notoriamente squattrinato, era giudicato per quanto attraente un partito non desiderabile, a torto del resto, come si vide poi quando fu troppo tardi. Egli era quindi più apprezzato dalle signore sposate che dalle ragazze da marito. Questi meriti e demeriti congiunti fecero sì che l'accoglienza ricevuta da Angelica fosse di un calore imprevisto. A un certo momento vi fu una vera calca di giovanotti che volevano farsi presentare e richiedere un ballo. A ciascuno Angelica dispensava un sorriso della sua bocca di fragola, a ciascuno mostrava il proprio carnet nel quale a ogni polca, mazurca e valzer seguiva la firma possessiva Falconeri. Il contegno di lei non si smentì neppure un minuto. Mai la si vide errare sola con la testa fra le nuvole, mai le braccia le si scostarono dal busto, mai la sua voce si alzò al di sopra del diapason, del resto abbastanza alto, delle altre signore. Poiché Tancredi le aveva detto il giorno prima: «Vedi, cara, noi, e quindi anche tu adesso, teniamo alle nostre case e al nostro mobilio più che a qualsiasi altra cosa. Nulla ci offende più della noncuranza rispetto a questo. Quindi guarda tutto e loda tutto. Del resto, Palazzo Ponteleone lo merita. Ma poiché non sei più una provincialotta che si sorprende di ogni cosa, mescolerai sempre una qualche riserva alla lode. Ammira, sì, ma paragona sempre con qualche archetipo visto prima e che sia illustre». Le lunghe visite al palazzo di Donna Fugata avevano insegnato molto ad Angelica. E così quella sera ammirò ogni arazzo, ma disse che quelli di Palazzo Pitti avevano le bordure più belle. Lodò una Madonna del Dolci, ma fece ricordare che quella del Granduca aveva una malinconia meglio espressa. E financo nella fetta di torta che un premuroso giovin signore le portò, disse che era eccellente e buona quasi come quella di Monsieur Gaston, il cuoco dei Salina. E poiché Monsieur Gaston era il Raffaello fra i cuochi, e gli arazzi di Pitti, i Monsieur Gaston fra le tappezzerie, nessuno poté trovarvi da ridire. Anzi, tutti furono lusingati dal paragone, ed essa cominciò già da quella sera ad acquistare la fama di cortese ma inflessibile intenditrice di arte che doveva abusivamente accompagnarla in tutta la sua lunga vita. La sala da ballo era tutta oro, liscio sui cornicioni, cincischiato nelle inquadrature delle porte, damaschinato chiaro, quasi argenteo su meno chiaro, nelle porte stesse e nelle imposte che chiudevano le finestre e le annullavano, conferendo così all'ambiente un significato orgoglioso di scrigno, escludente qualsiasi riferimento all'esterno non degno. Non era la doratura sfacciata che adesso i decoratori sfoggiano, ma un oro consunto, pallido come i capelli di certe bambine del nord, impegnato a nascondere il proprio valore sotto una pudicizia ormai perduta di materia preziosa che voleva mostrare la propria bellezza e far dimenticare il proprio costo. Quella tonalità solare, quel variegare di brillie e di ombre, fecero tuttavia dolere il cuore di Don Fabrizio, che se ne stava nero e rigido nel vano di una porta. In quella sala eminentemente patrizia gli venivano in mente immagini campagnole. Il timbro cromatico era quello degli sterminati seminari attorno a Donna Fugata, estatici, imploranti clemenza sotto la tirannia del sole. Anche in questa sala, come nei feudi a metà agosto, il raccolto era stato compiuto da tempo, immagazzinato altrove e come là. Ne rimaneva soltanto il ricordo nel colore delle stoppie, arse d'altronde e inutili. Il valzer, le cui note traversavano l'aria calda, gli sembrava solo una stilizzazione di quell'incessante passaggio dei venti che arpeggiano il proprio lutto sulle superfici assetate, ieri, oggi, domani, sempre. La folla dei danzatori, fra i quali pur contava tante persone vicine alla sua carne se non al suo cuore, finì col sembrargli irreale, composta di quella materia della quale sono tessuti i ricordi perenni, che è più labile ancora di quella che ci turba nei sogni. «Bello, principe, bello! Cose così non se ne fanno più adesso al prezzo attuale del loro zecchino!» Sedara si era posto vicino a lui, i suoi occhietti svegli percorrevano l'ambiente, insensibili alla grazia, attenti al valore monetario. Don Fabrizio ad un tratto sentì che lo odiava. Era nell'affermarsi di lui, di 100 altri suoi simili, ai loro scuri intrighi, alla loro tenace avarizia e avidità, che era dovuto il senso di morte che adesso incupiva questi palazzi. Si doveva a lui, ai suoi compari, ai loro rancori, al loro senso di inferiorità, a loro non essere riusciti a fiorire, se adesso anche a lui, Don Fabrizio, gli abiti neri dei ballerini ricordavano le cornacchie che planavano alla ricerca di prede putride al di sopra dei valloncelli sperduti. Ebbe voglia di rispondergli malamente, di invitarla ad andarsene fuori dai piedi, ma non si poteva. Era un ospite, era il padre della cara Angelica. Era forse un infelice come gli altri. Bello, Don Calogero, bello. Ma ciò che supera tutto sono i nostri due ragazzi. Angelica e Tancredi passavano in quel momento davanti a loro, la destra inguantata di lui posata a taglio sulla vita di lei, le braccia tese e compenetrate, gli occhi di ciascuno fissi in quelli dell'altro, il nero del frac di lui, il roseo della veste di lei, frammisti, formavano uno strano gioiello e si offrivano lo spettacolo più patetico di ogni altro, quello di due giovanissimi innamorati che ballano insieme, ciechi ai difetti reciproci, sordi agli ammonimenti del destino, illusi che tutto il cammino della vita sarà liscio come il pavimento del salone. I due giovani si allontanavano, altre coppie passavano, meno belle, altrettanto commoventi, immerse ciascuna nella propria passeggera cecità. Don Fabrizio sentì spettrarsi il cuore. Il suo disgusto cedeva il posto alla compassione per questi effimeri esseri che cercavano di godere dell'esiguo raggio di luce accordato loro fra le due tenebre, prima della culla, dopo gli ultimi strattoni. Com'era possibile infierire contro chi, se ne è sicuri, dovrà morire? non era lecito odiare altro che l'eternità. E poi tutta la gente che riempiva i saloni, tutte quelle donne bruttine, tutti questi uomini sciocchi, questi due sessi vanagloriosi, erano il sangue del suo sangue, erano lui stesso. Con essi soltanto si comprendeva, soltanto con essi era a suo agio. Sono forse più intelligente, sono certamente più colto di loro, ma sono della medesima risma. Con essi debbo solidarizzare. Thank you.